All'interno dell'edizione 2020 di Resilienze Festival ci sarà la proiezione del documentario di Alessandro Rossi e Michele Mellara, Vivere che rischio. Noi ne parliamo con i registi. In questo documentario voi ripercorrete la biografia di Cesare Maltoni, che forse non tutti i bolognesi conoscono, però è una figura molto importante, è stato per anni anche direttore dell'Istituto Ramazzini. Da cosa nasce, quali sono gli aspetti, diciamo, interessanti della vita di Maltoni che vi hanno portato a realizzare questo documentario? È stato non solo il direttore, ma è stato il fondatore dell'Istituto Ramazzini, e questo, diciamo, è l'elemento di interesse principale, punto di partenza, nel senso che l'Istituto Ramazzini era e rimane una struttura unica in Italia e tra le pochissime in Europa, forse nel mondo, di ricerca privata, non direttamente gestita la cosa pubblica, sulle sostanze cancerogene in ambiente di lavoro. Quindi per anni, a partire soprattutto dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, quando nacque questo percorso pionieristico di Maltoni sulla ricerca sulle sostanze appunto pericolose, nocive negli ambienti del lavoro, era l'unico luogo dove si svolgevano in vivo queste indagini, e questo ha consentito all'Istituto Ramazzini di acquisire una fama internazionale, una riconoscibilità in questo settore internazionale appunto, e soprattutto di salvare molte vite, perché nel momento in cui queste sostanze sono state individuate, parlo di sostanze quali amianto, cloruro di vinile, formaldeide, aspartame e altre ancora, lì si è intervenuti in più di un'occasione sui luoghi stessi dove queste sostanze venivano utilizzate per ridurne o impedirne l'utilizzo. Quindi è stata una figura sostanziale nel cercare di tutelare prima di tutto la salute dei lavoratori e poi anche la salute pubblica. E questo è il secondo elemento di interesse, cioè l'incontro con un gigante del concetto di prevenzione e del concetto di salute pubblica. Quindi non curare, ma intervenire affinché la società rimanga sana, e non sul singolo, non la medicina intesa come intervento di un medico sul singolo, ma un intervento sulle modalità di vita sociale, quindi su che cosa è dannoso per la società. Il famoso principio di precauzione, che però per quanto riguarda le malattie oncologiche non veniva rispettato. Sostanzialmente non veniva neanche considerato. Si parla di suoi ricerche, le ricerche di Maltoni sono iniziate negli anni 50, i primi studi sul cloruro di vinile risalgono alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, e basti pensare che i primi studi furono addirittura commissionati dalla Mount Edison stessa, perché pensava che ci potesse essere ovviamente una possibilità di riduzione del rischio negli stabilimenti, in particolare di Marghera, dove si lavorava il cloruro di vinile. Gli studi di Maltoni dimostrarono che questo rischio non poteva essere controllato se non eliminando il contatto diretto con le polveri di cloruro di vinile. Quindi insomma era uno spazio ancora sconosciuto, si facevano all'epoca ricerche epidemiologiche, cioè si aspettavano sostanzialmente i decessi e poi si studiavano le incidenze dei casi di tumore. E Maltoni in questo comprese una modalità di intervento diverso, che era cercare di capire quali sostanze erano nocive e come poter ridurre il loro utilizzo. Ovviamente questo lo portò a scontrarsi con poteri molto forti, con soprattutto i poteri dell'industria. Basti pensare alle sue ricerche sul benzene, hanno pestato molti calli nelle grandi corporazioni di produzione della benzina, delle benzine verdi. È stata una figura anche molto isolata, tenuta in particolar modo in Italia in disparte. Eh sì, proprio su questo ti volevo fare una domanda, è stato gettato anche discredito proprio perché andava a colpire degli interessi grandi. Sì, assolutamente, ha avuto anche ha rischiato anche personalmente in alcuni casi, ma soprattutto tutto si agiva in termini molto semplici, cioè le grandi corporazioni facevano pressioni sulla cosa pubblica che finanziava le ricerche, e questi quindi ogni volta che una ricerca veniva completata e uscivano i risultati di ogni ricerca, immediatamente finivano i soldi e quindi bisognava ripartire, cioè c'erano dei tagli drastici alla possibilità di ricerca. Quindi è stata una vita avventurosa, rischiosa e una lotta continua, e questo ovviamente rende la figura di Cesare Maltoni una figura estremamente affascinante da raccontare in generale, ma anche attraverso le immagini, attraverso il cinema. Oggi siamo in un contesto globale inaudito, inedito, diciamo così, quello della pandemia. Si è parlato molto di sanità pubblica. Qual è il messaggio, l'insegnamento che arriva da Maltoni su questo tema? Questo è molto interessante, perché parlando di prevenzione e del fatto che Maltoni intuì che la prevenzione era l'essenza della struttura sanitaria pubblica, viene in mente che nel momento in cui lui, tra le sue grandi conseguimenti, inserì il PAP test, quindi lo screening sui tumori alla cervice dell'utero, come pratica istituzionalizzata e biennale per tutte le donne di Bologna e provincia, e da lì creando quindi una scuola di prevenzione, ecco, lì non c'era il pensiero sul dispendio energetico ed economico o la quantità di personale necessario o quanto serviva a gestire questa prevenzione. Cioè, l'idea era che bisognava mettere in campo tutte le risorse possibili per prevenire queste malattie. Quello che ci siamo trovati a fronteggiare adesso invece è un'idea di logistica dei mezzi che ha ridotto drasticamente la possibilità preventiva in funzione di una ipotetica funzionalità del sistema sanitario. Questo ovviamente nei momenti in cui c'è un'emergenza si trasforma nella sciagura che abbiamo visto, cioè nell'incapacità di gestirlo. Maltoni avrebbe probabilmente insistito su un'idea che le strutture sanitarie pubbliche devono essere sempre disponibili alla prevenzione e che il principio di risparmio non ha nessun senso in termini di salute pubblica.